Ecco, professor Caramelli, c'era un mio amico giornalista scientifico che mi piace ricordare, Franco Prattico, che diceva che il genere Homo e la specie Sapiens, ma anche tutte le altre specie, sono possedute da una sorta di frenesia del viaggio. Sono tra le poche specie viventi che hanno colonizzato l'intero pianeta. Questo della migrazione è una costante nella storia evolutiva dell'uomo. Ma direi proprio di sì. Infatti io rimango molto sorpreso che oggi ci sorprendiamo che ci sono tanti individui, che tante persone che scappano da luoghi di sofferenza e si diffondono dove c'è il benessere. L'uomo si è sempre spostato. È 200.000 anni che si sposta. Prima si è spostato in Africa, poi dall'Africa è uscito fuori, si è spostato in Europa, in Asia, poi ha colonizzato il nuovo continente, le Americhe, intorno ai 12.000-13.000 anni fa. Per cui noi siamo una specie che si sposta. Ma non solamente Sapiens, si sono spostati anche i nostri predecessori, l'ergaster che è uscito dall'Africa e poi si è trasformato in Erectus da qualche parte in Medio Oriente e poi insomma si è diffuso in Asia, in Europa ha dato origine all'Heidelbergensis, poi Neanderthal, quindi ci siamo sempre mossi e quindi è impossibile arginare i flussi migratori. Si figuri 200.000 anni fa andavamo a piedi, adesso abbiamo i mezzi, si figuri con che veemenza riusciamo a spostarci. E quindi Questa è la verità, e questa è la verità. Noi... questo. Studiando la storia del passato abbiamo anche una rappresentazione realistica del presente. Io ringrazio il professor David Caramelli, ricordo antropologo.